Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ai, ai, ai, ai, eliminati Cavani, Suarez, Muslera e Godin, e a casa torniamo Italia. Notti tragiche. Balotelli rientra proprio nel progetto tecnico. Io ho scelto e io mi dimetto, che non è stato un progetto tecnico vincente. Eh sì, rapido riassunto col coro di Fiorello, coro vagamente da ubriachi ma molto divertente. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scalzi di regia, Claudia Schettoni in redazione. Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio. Mucchio selvaggio come ogni giorno, mucchio selvaggio anche per le vostre telefonate. 800 24 00 24 è il numero verde. Beh, l'Italia non va proprio di moda in Brasile, eh? Anche Capello a casa, come sapete, pari con Corea del Sud, con la sua Russia, sconfitta con il Belgio, e ieri sera questo pareggio contro l'Algeria. Ovviamente, ce l'abbiamo già a Capello? Ce l'avete? Ovviamente la colpa, secondo Don Fabio, di chi può essere, se non di quel signore che aveva il fischietto in bocca. I'm disappointed. I don't like to speak about referee. Every time against Russia, every time. When? Today was another penalty. When? I know. When? It was the foul. I don't like it. Oh no. I don't understand why. Allora, così incazzato nero, poi c'è, ha provato ad addolcire il concetto, che però rimane lo stesso. Referee against Russia, referee against Russia. Capello, arbitraggi. Ho detto bene, sì, insinuare niente, che il fallo da cui è venuto fuori il gol era a favore nostro, solo questo. E l'altra volta c'era un fallo su Cocori, probabilmente limite l'area fuori area, e non ce li fischiano. Devo lamentarmi anche dell'arbitraggio che abbiamo avuto contro il Belgio. Calcio di rigore, un fallo sulla ripartenza del loro. Sono stato zitto, adesso lo dico. Finita. No. Ok? Che poi loro abbiano fatto gol, va benissimo. Che il nostro portiere sia stato accecato dal laser per 10 secondi prima del gol. Ci sono le foto. Questo però l'arbitro non c'entra nulla. No, l'altro non c'entra nulla, fatto sta che Capello ha avuto un portiere molto peggiore rispetto a tutti gli arbitri che hanno fischiato la sua Russia. Questa comunque è una perfetta lezione di italiano, e ovviamente non dal punto di vista lessicale. Comunque, Spagna, Italia, Inghilterra, Portogallo, Russia, tutte a casa. Vogliamo parlare di giocatori? Rune, Cristiano Ronaldo, Diego Costa, non molto meglio di Balotelli secondo me, eh? Anche perché io non ho cambiato la mia idea, poi ci torno tutte le volte che volete. 80024 0024, anzi i miei si fanno più solidi ogni giorno che passa. Quello spogliatoio, questa spedizione non è stata guidata da un commissario tecnico, cioè da Cesare Prandelli, è stata guidata da un gruppo di senatori capeggiati da Buffon, Pirlo e De Rossi. Questi sono accodati, poi si è accodato il gruppo degli Juventini, e loro hanno deciso ogni cosa, e alla fine hanno anche individuato il colpevole dopo averlo sostituito. Io sono convinto di questo, perché le dinamiche e i racconti dicono questo, dopo averlo sostituito loro, i giocatori, nell'intervallo. 800 24 00 24, ma poi torniamo a parlarne. Tra le delusioni di questo mondiale, non molto meglio Balotelli, Mandzukic, Dzeko, Eto'o, Pjanic, Drogba, Kovacic, volete aggiungerne qualcun altro, fate pure. Ovviamente dopo questo primo giro, Sud America Uber Alles per il momento, con l'Ecuador unica squadra sudamericana eliminata. Certamente ci sono le stelle, quelle note. Messi ovviamente il vincitore di tappa tra i giocatori per quello che ha fatto fin qui, cioè tantissimo, e stiamo vedendo per la prima volta un grande Messi ad un mondiale a 27 anni, l'età giusta, una stagione storta o forse di riposo viene da pensare con il Barcellona. Messi, questo Messi col Barcellona quest'anno non si era visto mai. Grande Müller, Neymar, Robben, Cuadrado, ma ce ne sono altri che magari mi direte. 800 24 00 24. Per quanto riguarda l'Europa, ci rimane oltre alle potenze storiche Germania, Francia, Olanda, ci rimane l'Europa minore, Svizzera e Grecia. Grecia, secondo me, dal punto di vista dell'organico, probabilmente la peggior squadra tra quelle qualificate per gli ottavi di finale. 800 24 00 24, siete lì? Vi aspetto. Convocati. Devi dare 1,5 milioni a Prandelli, perché? Cioè, che cazzo vale Prandelli ad avere 1,5 milioni? Io posso fare il commissario tecnico, ho un'idea in mente. Se devi fare pareggio, prendi 10 giocatori e li metti davanti alla rete per 1,5 ore, vedi che non passa un pallone. Cioè, devi avere delle idee chiare, non devi perdere, ma rompi i coglioni, noi siamo in difesa, siamo qua, aspetta, siamo fermi così, ci muoviamo così, fate quello che volete, allora se invece prendi 1,5 milioni, e lo dico con una persona tra l'altro estimabile, una persona abbastanza seria per quello che dice, devi vincere, altrimenti torni indietro, no? O non prendi più. Dunque, Sgarbi CT può essere un'idea, Sgarbi CT può essere un'idea, poi bisognerebbe far notare anche a Vittorio Sgarbi, va bene, 1,5 milioni, questa storia dei soldi è pallosissima, non so se siete d'accordo, bisognerebbe far notare anche a Sgarbi che quel signore che abbiamo sentito prima, che ha detto all freeze against Russia, quel signore lì di milioni ne piglia 9. Ok. L'illustre Sgarbi ne ha avute ovviamente anche per Balotelli, perché se c'è un'onda da cavalcare, lui è bravissimo. Balotelli non so cosa prenda, ma ha ragione Alba, adesso il razzismo c'entra poco, ma prende sicuramente più di te, più di me, più di lei, più di tutti noi messi insieme, allora, o vince o la fa culo. Cioè, non è che c'è alternativa, cioè, se io pago molto un cantante deve vincere, capito? Questo è un concetto chiaro, è lo stesso idea che hanno i russi, grosso modo. I russi dicono: io ti copro d'oro, però tu sei obbligato a vincere, altrimenti ti caccio via calci nel sedere. Quindi uno Sgarbi un po' ex sovietico. Piero da Roma, Luca da Roma sono i primi due ascoltatori, sta per arrivare anche Pardo. 800 24 00 24 il numero verde. C'è anche Chiellini che perdona Dracula, che gli ha succhiato il sangue dopo la sconfitta di ieri di Suarez, che la sconfitta, la squalifica che conoscete bene, una mazzata probabilmente senza precedenti nella storia del calcio internazionale, anzi senza probabilmente, 9 incontri con la nazionale, 4 mesi di partite con il club, Daspo dagli stadi, insomma mancava solo una settimana di prigione dura. Però Chiellini lo perdona, la squalifica inflitta a Suarez è eccessiva, secondo Chiellini. Ho sempre considerato inequivocabili gli interventi disciplinari da parte degli organi competenti, ma al tempo stesso credo che la formula proposta sia eccessiva. L'ha toccata un po' più forte Maradona, che ha parlato di squalifica da mafiosi. Ma il migliore su questo fronte, e questo insomma, è una storia che mi intriga molto, quella della difesa strenua ad ogni costo dell'Uruguay, di tutta la sua gente e soprattutto del suo presidente per Suarez. Mujica ha detto: quanti soldi hanno perso alla FIFA a causa dell'uscita di Italia e Inghilterra, che sono state buttate fuori dai mondiali dall'Uruguay? A porsi la domanda durante l'intervista TV appunto al presidente uruguaiano Mujica, che ha aggiunto: gli italiani sono campioni nel far irritare la gente e questo pazzo, cioè Suarez, ci è cascato. Piero, buongiorno. Buongiorno e buon lavoro. Ma io volevo parlare dell'ipocrisia di Chiellini che perdona Suarez. Ma cosa gli ha fatto? gli ha appoggiato le labbra, i denti, è andato in escandescenza. Poteva rimanere concentrato a giocare, però lo perdona. Ma anche lui, quando mette veemenza, come è giusto metterla in qualunque gioco, nello sport, nessuno gli ha detto nulla. No, altra però, cosa, però Piero, onestamente, non è che gli ha appoggiato le labbra, gli ha dato un mozzicone. Non gli ha messo punti e non sono arrivato. Vabbè, punti, mancava solo che facesse come. La giusta, magari. Ho capito, però, che quantomeno che un giocatore, uno che sta giocando, si sente morsicare in quella maniera, l'ha morsicato sul serio. Non è che rimani lì, no? Non è che possiamo dire. È stato un gesto così, un normale contatto di gioco. Comunque, va bene. Lo perdona, tant'è, va bene così. Poi? Volevo dire, perché nessuno di voi parla mai e nel ritenere che Buffon ormai appartiene al mondo del gossip e non più del calcio? Nessuno ne parla, nessuno lo dice. Sono tre giorni che lo dico, cioè sono tre giorni che non sto dicendo che Buffon appartiene al mondo del gossip. Sto notando come il comportamento, secondo me, le parole, il comportamento del nostro capitano, che è stato un grande portiere, che forse adesso non lo è più. E aggiungo anche un'altra cosa. Li abbiamo amati tutti e li amiamo ancora, no? Questi titoli mondiali, campionissimi, eccetera. Però se siamo reduci da due fallimenti totali mondiali consecutivi, ebbene, con tanti ringraziamenti, però sarebbe apprezzabile se la vecchia guardia facesse un passo indietro. Non ponesse la propria candidatura per il commissario tecnico che verrà. Guarda che noi siamo qui, noi non molliamo. Siamo qui e tu dovrai fare i conti con noi, come con noi i conti li ha fatti Prandelli e li ha fatti Balotelli. Quantomeno dire, magari vista l'età, visto il ciclo mondiale, al prossimo uno ci avrà 40 anni, l'altro 43, 39, l'altro 38, sto parlando di Buffon, De Rossi e Pirlo. Insomma, sarebbe anche il caso di voltare pagina, anche perché dietro qualcosa c'è. Luca da Roma. Pronto? Pronto, dica. Buongiorno signor Genta. Buongiorno. Senta, volevo fare tre considerazioni e poi ascoltare la sua opinione. Allora, la prima è che comunque quando si gioca a calcio si gioca in 12, si vince in 12 e si perde in 12. Quindi tutte le polemiche secondo me fanno aria fritta, perché anche chi ha giocato peggio o chi ha giocato meglio, comunque la squadra è la squadra, il gruppo è il gruppo. Sì. Questa è la mia prima considerazione. E anche la seconda. La seconda è che io, una volta che l'Italia ha vinto con l'Inghilterra, io avrei giocato con la stessa squadra, e questa è una cosa azzardata, è un'utopia, sì. Avrei giocato con la squadra che ha vinto col Fluminense, perché se tanto mi dà tanto, ne prendono tre, ma ne fanno cinque, a quest'ora eravamo agli ottavi di finale, però è una cosa azzardata. Cioè, vabbè, il Fluminense comunque è sempre la prima squadra del Brasile, non è una squadra di club mondiale, però se ci mettiamo a fare a decidere la formazione sulla base di quel test, stiamo a posto. Piuttosto si può dire, riproponiamo la stessa squadra, anche se era piuttosto scombinata, che ha battuto l'Inghilterra, perché normalmente lei conosce il vecchio detto, ma dire ok, prendo la squadra che ha giocato la Fluminense, che ha beccato tre gol ma ne ha fatti cinque, quello mi sembra un po' un pelo eccessivo. Luca, abbiamo in collegamento, però, perché adesso voglio interpretazione autentica, perché non mi stanno bene quelle, non mi sta bene la lezione di italiano di qui sopra. Fabio Cappello, buongiorno. Buongiorno. Ma è sempre convinto che the referee is against Russia? Siete usciti per colpa dell'arbitro? Well, first of all, I want to say thank you to tutti i convocati, programma che ascolto, a good emission, a good radio program on the radio 24. No, guardi, come che è italiano, può parlare italiano. No, pardon, bene, tu? I'm furious anyway, I'm very furious, it's unbelievable, it's unbelievable. Poi il portiere, ma dai, ma a parte tutto, ma posso dire. E devi dire, dai. Ah, colpa dell'arbitro, dire. Bella lezione di italiano anche di Don Fabio, in piena regola, sì, perfetto. Ma più che l'arbitro, il portiere, dai. Ma veramente è una roba assurda, ha preso 3 gol la Russia, 2 se le fatti da sola. Dai, esatto, di esatto, stiamo esatto, di che stiamo parlando. Chi about, caro Genta. No, comunque, Pier, stavo facendo alcune considerazioni alla fine della prima orgia, no? Di partite. Spagna-Inghilterra. Spagna-Inghilterra? Spagna-Inghilterra-Italia, Portogallo-Russia. Runei, Cristiano Ronaldo, sì. Diego Costa, ma anche Mandzukic, Dzeko, Eto'o, Pjanic, Drogba, Kovacic. Tutti bocciati insieme a Balotelli, eh? Tutti in segno di solidarietà nei confronti, certo, del povero Ibra. Certo. Tutti hanno deciso. Not in my garden. No, beh, insomma, sono storie diverse. Mi sembrano storie diverse. Il dato abbastanza complessivo, cercando di fare una sintesi, è che sicuramente il Sud America sta andando meglio all'Europa, e questo lo sappiamo, al di là del fatto che poi alla fine le europee hanno recuperato, però insomma le grandi tradizioni del calcio europeo ce ne sono parecchie fuori, perché Spagna, Italia, Inghilterra e Portogallo fuori significa, se non sbaglio, alla fine le europee sono 6, però insomma di queste 6 alcune non mi sembra che abbiano molte possibilità, penso per esempio alla Grecia e alla Svizzera. Sì, appunto, l'Europa restano le grandi classiche: Olanda, Inghilterra, Germania, Olanda, Francia, Germania. E in più le europee minori, no? Svizzera e Grecia. Sì, noi abbiamo 3 europee che possono arrivare in fondo, almeno sulla carta. Un outsider che è il Belgio e 2 squadre che sembrano destinate a fare un ruolo secondario. Devo dire che la Grecia, poi magari col fatto che a Costa Rica potrebbe anche prolungare di un turno. Ma te l'immagino. Però io ti dico anche una cosa, che avendo vissuto da inviato l'europeo del 2004... convinto dalla Grecia in maniera incredibile, penso, non riguarda la Grecia il discorso, riguarda in generale tutto, che poi quando comincia la fase dell'eliminazione diretta, sempre di più l'elemento dell'imponderabile, della partita, della prestazione, dell'episodio, dell'arbitro può essere decisivo, per cui attenzione, perché andando avanti, secondo me, la possibilità nei 90 minuti o nei 120 minuti della sorpresa aumenta. Detto sì. Questo, mi sembra che Grecia e Svizzera siano 2 outsider totali. Ma andiamo. Chi sono le 4 semifinaliste per il signor Genta? Sentiamo. Bene, 4 semifinaliste. Adesso fammi studiare il tabellone, te le dico dopo. Secondo te le dico dopo. Ma io sogno, come tu sai, una finale. L'unica finale possibile per questo mondiale. Cioè Brasile-Argentina. Bravo, il derby del mondo. Brasile-Argentina 0-1 Messi. No, Brasile-Argentina 0-1 con il gol di un cagnaccio. Ah, uno tipo Fernandez in mischia. Ma sì, uno di questi, ma un gollonzo di questi in mischia, tutto ammucchiato, aggrovigliati, magari un mezzo fallo, gol. Io sogno questo, sai. Ci piacciono brutti, sporchi e cattivi. Senti Pier, sta lì perché no, c'è anche l'Africa che mi intriga abbastanza. Africa a casa tra figuracce e casini, statuari di Muntari e Boateng cacciati via dal ritiro, che avrebbero litigato, poi in realtà non hanno litigato, pare abbiano fatto finte di litigare, poi è successo un altro casino collaterale, sono stati mandati via, poi hanno postato una foto, brothers forever, tutti e due insieme. E intanto, mentre era arrivata, come tu sai, la valigetta, no? Nel ritiro del Ghana era arrivata la valigetta con 3 milioni di dollari, perché altrimenti non giocavano, che i giocatori si sono divisi 100.000 a testa. Storie dell'altro mondo. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, io ho un sacco di messaggi, magari non sempre morbidi, sull'argomento che toccavo prima. So che tu hai una posizione molto più sfumata della mia, molto più morbida. Io ho detto prima che, e continuo a sostenere, che il comportamento e le parole dei senatori di questa nazionale non mi sono piaciute, ma poi aggiungo, sarebbe normale che quantomeno mettessero in discussione anche la loro di candidatura, non soltanto quella del responsabile o dei responsabili, a loro dire. Invece Buffon non rimane lì, e il nuovo allenatore dovrà fare i conti con lui, De Rossi e perfino Pirlo che ha fatto marcia indietro, secondo me non facendo una bella figura. A me questo atteggiamento non è piaciuto, continuo a dirlo, poi il mondo è bello perché è vario, qualcuno ha idee totalmente opposte. No, io in linea di massima, dal punto di vista procedurale, diciamo di principio, sono d'accordo con l'idea che, che chiaramente i giocatori, per quanto importanti, e un gruppo per quanto numeroso di giocatori importanti, non deve fare la formazione, non deve decidere. Sono perfettamente convinto di questo. Però credo anche che se un gruppo di giocatori, dei quali comunque mediamente mi fido, cioè non penso che stiano inseguendo discorsi personalistici, non è che c'hanno l'amichetto loro da spingere, non so come dirti, parlo un linguaggio terra-terra per capirci, cioè non ci vedo un disegno di questo tipo, allora se sono arrivati a questo punto è perché evidentemente qualche problema c'è stato, e siccome una squadra di calcio è appunto una squadra, cioè un gruppo umano particolarmente complesso, particolarmente delicato nella sua gestione, nel quale le piccole differenze possono essere fatte proprio dall'unità che c'è all'interno, dal sentire comune, dallo spirito di corpo, e questa cosa è importante. Per cui poi l'uscita pubblica non mi piace in assoluto, la situazione chiaramente alla fine, mi dispiace per Prandelli che pure ho difeso mille volte e per il quale comunque secondo me deve essere sempre ricordato, una parentesi, che ha rinunciato ai soldi, e questo è un atto di grande onestà intellettuale, però ecco, tutto questo rivela che è mancata la gestione dall'alto, è mancata la forza di un CT capace di dire facciamo così, e forse uno dei problemi, uno dei limiti di Prandelli è stato il fatto di essere stato troppo buono. A me risulta che Prandelli sia arrabbiatissimo con Balotelli, non con i senatori, che si sia sentito tradito, perché comunque un giocatore che lui ha difeso in tutti i modi e che ha considerato un figlio, poi in alcuni comportamenti, soprattutto fuori dal campo, non è stato all'altezza di questo compito. E io sinceramente sono d'accordo, cioè, a me sembra che tante questioni assolutamente legali, per carità, che rientrano nel possibile, nel consentito, però comunque siamo di fronte a dei comportamenti non opportuni da parte di Balotelli in questo mondiale. Ultimo la famosa cresta e però fatto sta che questo lo diamo per scontato, fatto sta che la mia impressione definitiva, detto tra noi, è che questo mondiale sia stato gestito da questo gruppo di giocatori più che dall'allenatore, e ti dirò di più. Io ho la sensazione, che rimane mia, che quel cambio nell'intervallo con l'Uruguay non l'abbia neanche fatto poi tanto Prandelli. Insomma, io credo che... Mi sembra una ricostruzione esagerata, insomma. Può essere, però il peso specifico... Quel cambio sia stato un cambio disciplinare sicuramente, ma un cambio disciplinare dovuto alla scelta di un allenatore. Poi l'allenatore forse sarà stato condizionato da alcuni giocatori e dai rapporti che c'erano all'interno. Però insomma, io credo che nelle grandi squadre vincenti lo spogliatoio è importante, cioè Ibra a Barcellona, stiamo parlando di un grandissimo giocatore, con rispetto per Balotelli, al quale auguro di diventare a quei livelli lì, di poter arrivare a quei livelli lì. Ibra, che era stato preso per un investimento record, è stato respinto dal Barcellona come un corpo estraneo, giusto o sbagliato che sia, però così è andato a finire. Non sarebbe né la prima né l'ultima volta nella storia che alcuni giocatori vengono appunto respinti dall'ambiente in una certa maniera, non vengono considerati organici al progetto e al gruppo dominante. Non è una cosa, non è una mafia, non è una roba... No, questo ci sta, bisogna vedere qual è il peso specifico, perché che ci sia un gruppo dominante, qual è il peso specifico? Peso specifico aumenta quando perdi è chiaro che adesso siamo a volo negli stracci, dopo la vittoria con l'Inghilterra questa roba qui non veniva praticamente fuori, no? Però evidentemente sotto traccia, sotto la cenere, c'era questo tipo di problema. Ripeto, secondo me sono gruppi umani complicati le squadre di calcio, no? Sono equilibri molto sottili, per cui secondo me è un po' astratto il fatto di dire no, decide l'allenatore, basta, nessuno deve avere un potere. Il potere te lo dà il carisma, te lo dà il fatto di essere leader, di aver vinto delle cose, di aver dimostrato delle cose. Da questo punto di vista quel gruppo lì è quello che è dominante, ha la cosa è un gruppo che è dominante. Detto questo, è anche il gruppo che è al secondo fallimento mondiale consecutivo, perché ok, 2006 ce lo ricordiamo tutti, per tutta la nostra vita ce lo ricorderemo, però non dimentichiamo che è lo stesso gruppo che ha fallito gli ultimi due mondiali. Adesso abbiamo un ospite in linea, però prima questa copertina. Alla fine ce la fa a segnarsi da solo, 1-0 per la Corea. Casillas regala a Persi, il gol del 4-1, 4-1, doppietta di Robin von Persi. Colpo di testa di Mensah, Dauda allontana il pallone. Cristiano Ronaldo per il primo gol al mondiale di CR7. Il pallone passa al centro. Che tira De Pai, erroraccio di Ryan, segna Memphis De Pai. Papere mondiali, quelle che abbiamo visto fin qui, perché altre ne vedremo, ci stanno anche queste. Luca Marchetti da Sky, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Un po' di mercato mondiale, Pardo, ti va? Niente. Io ho un problema, vale. Ragazzi, ero d'accordo con Pardo nella discussione di prima. Sì? Lo so. Sì, no, no, ma io cioè, sono... Questo mi ha anche portato quasi a voler attaccare il telefono. La cornetta. Però espandi il concetto, espandi, che ci interessa anche la tua opinione. Anche perché no, ero d'accordo con te. Prego. Più verboso di te non posso essere. Più chiaro di te non posso essere, quindi va bene così. Cioè, tu pensi che Buffone e il gruppo storico avessero ragione? Io penso che gli equilibri di uno spogliatoio siano molto delicati, penso che il problema Balotelli è un problema relativo che non può essere analizzato né in questa esperienza mondiale, ma che eventualmente dovremmo allargarlo, perché prima Pier faceva riferimento a Ibrahimovic, che è stato respinto da spogliatoio del Barcellona. È stato l'unico caso in cui Ibrahimovic è stato respinto. Non credo che per Balotelli sia la prima volta. No, non lo è. E quindi nel caso di Ibra ci può stare il discorso di Pier, che giustamente io sono assolutamente d'accordo con lui, che si vince più con lo spogliatoio che con l'allenatore, secondo me. Nel caso di Balotelli, non essendo la prima volta, io fossi Balotelli mi farei qualche domanda. Però vedi, Luca, Ibra respinto da uno spogliatoio vincente, altri casi di giocatori respinti da spogliatoi vincenti, allo stesso Balotelli è capitato. Però nella sconfitta dire noi della vecchia guardia facciamo sempre il nostro, la colpa è di qualcun altro, questo a me non piace. E quindi e su questo non cambio idea, non mi piace, è un atteggiamento che io non condivido, sono parole che non condivido. Posso fare il momento forum? Non so se ne avete già parlato. Cioè, forum. No, ma avete visto? Scusate, io sono da 16 ore, vedo, cioè non ho fatto anche altre cose, e vedo a rullo il video di Repubblica, che è un giornale che leggo tutti i giorni e non mi vergogno a dirlo. Il video di Repubblica.it, clamoroso, battute al veleno, ma l'avete visto? No. Non avete visto? C'è un video in cui ci sono 50 persone che si salutano, Buffon canta un pezzo di una canzone di Amischilla, che spesso ci ascolta, lo salutiamo, e Cassano gli dice una cosa, tu stai da là, vieni, davanti alla porta, eccetera, e queste sono le battute al veleno. Ti invito a guardarlo, perché... Come dice Cassano, perché... scusami... Allora, da Bonucci gli dice sempre forza la Bari, c'è questa cosa qua. Poi con Candreva parlano di trattori, non si capisce bene. Poi abbraccia Verratti e c'è Buffon sullo sfondo che canta un momento della canzone di Amischilla. Sì. E lui gli dice tipo da lì vieni, oppure ti sei messo lì davanti per non farmi passare, perché passo davanti a... cioè mi sembra proprio una roba di un'ingenuità clamorosa. E il titolo sulla home page di Repubblica.it, li saluto, non c'è veramente nessuna polemica, però insomma riguardatevelo, perché non è possibile, cioè, capisci che poi rischiamo di perdere noi come categoria, e mi ci metto io per primo, la nostra credibilità, così come quando a Italia-Uruguay, dopo che si è aperta la voragine, per un'ora i siti hanno scritto che la partita era a rischio, ma chi era a rischio? Era 8 chilometri, cioè attenzione a queste cose qui, perché poi secondo me uno dice ma perché? Può pensare anche che ci sia malizia, io sono sicuro che non c'è malizia, però insomma, riguardatevi il video e ditemi se adesso se mo riguardo e sembra... poi ti dico. Senti, ho il traffico, Luca Marchetti stai con noi che un paio di cose a chiederti ce le ho. Io ce le ho, pardon, non lo so. Tutti convocati. Sto guardando il video di qui sopra, vedo solo le facce, però non mi sembrano facce da gente che si vuole menare. Poi il... Sto guardando le facce, mi sembra facile non normale. Ti invito a guardarlo perché poi magari io sono obnubilato, eh. Sì. Ma io un po' lo conosco e mi sembrava proprio un momento in cui, cioè, quando si arrabbia è un po' diverso. Ma sì, ma anche la faccia di Buffon, ma anche la faccia di Buffon non mi sembra. Buffon, ecco, quando è Angelo Buffon è un po' diverso. Non mi sembra la faccia cattiva. Senti, Luca Marchetti, torniamo là. Eccoci. Balotelli va all'Arsenal, vero? Secondo me no, al di là delle dichiarazioni ufficiali, a cui peraltro in questo caso non credo che ci sia questo grandissimo interesse da parte di Wenger per Balotelli. Credo che non ci sia neanche l'obbligo da parte del Milan di vendere Balotelli, perché in questo momento obiettivamente non sarebbe neanche il momento migliore per vendere. Sarebbe il peggiore, però si è parlato, ovviamente si fa della malizia, non so quanto fondata, anche di questioni di sponsor, con la Puma che andrà a sponsorizzare, giusto per fare i nomi. Ma sì, questi ragionamenti si fanno spesso. Stupidaggini? Si fanno spesso, alle volte si prende, alle volte no. Non è detto che se io vengo sponsorizzato dalla Puma è perché domani arriva il miglior giocatore che hanno sotto contratto, uno dei migliori. È assolutamente svincolato quest'anzi, alle volte ci sono dei testimonial di altri marchi sportivi che vanno a giocare in squadre griffate dal diretto concorrente, quindi e poi il problema lo risolvono in serenità. Dicevi, Pier? Messi per fare un esempio. No, ma io stavo solo chiedendo informazioni. Ronaldo, Messi, adesso senza fare nomi, tanto sapete quali sono le due aziende leader. Messi è testimonial di una e gioca in una squadra che ha come sponsor tecnico l'altra. Cristiano Ronaldo è testimonial dell'altra e viceversa. Quindi questo discorso è molto astratto. No, io penso che in assoluto, per come gioca Wenger, a parte che Wenger ogni anno sembra che se ne debba andare, poi rimane sempre, Balotelli è un giocatore perfetto, nel senso che Wenger, che ama molto diciamo il caos calmo, se mi passi questa espressione veronesiana, cioè un modulo senza una punta di riferimento di tipo tradizionale, di area di rigore, uno come Balotelli secondo me lo apprezza, è perfetto per l'Arsenal, però mi risulta che insomma anche a Londra non si fidi, ma stavo solo assumendo informazioni sulla base dei si dice che ho sentito in giro. Invece chi, Luca, sta facendo un sacco di soldi potenziali con questo mondiale è la Fiorentina, naturalmente, l'ha detto anche Della Valle, no? C'è dubbio, per me Cuadrado è uno dei giocatori più interessanti che si è visto a questo mondiale. Noi già lo conoscevamo, non credo che lo conoscessero tutti sotto questo aspetto, ti dico la verità, perché la Fiorentina quest'anno è stata un po' nascosta agli occhi del grande pubblico internazionale, e Cuadrado invece è un grandissimo giocatore. Non che non se ne fosse accorto il Barcellona, non che non se ne fosse accorto il Bayern Monaco, sarebbe un problema per la Roma o per la Juventus, perché se queste due squadre entrano in gioco, e secondo me prima o poi entrano in gioco più il Barcellona che il Bayern, noi invece come club italiani andiamo fuori gioco, perché la competitività con loro non c'è, a livello economico non c'è. Pier, so che Pardo non è un enorme estimatore di Diego Costa, cioè buon giocatore, no Pier, ma non crack assoluto. Avessero aspettato dopo il mondiale a prenderlo, magari avrebbero risparmiato un po' di soldi quelli del Chelsea. E insomma, poi un discorso che vale in generale sugli attaccanti è che un anno è un po' poco per avere la certezza di essere fuori classe, di essere un top player. La stagione di Diego Costa è stata incredibile, cioè quest'anno ha fatto delle gol, poi è un attaccante che ha tutto, perché è un attaccante che al di là del contributo realizzativo combatte per la squadra, fa reparto da solo, insomma è un giocatore, c'è tutto. Quello che ha fatto l'Atletico Madrid è eccezionale, mi pare che al mondiale, forse condizionato anche da questa strana condizione di essere un brasiliano in terra straniera oppure uno spagnolo che torna a casa sua, insomma, con i fischi del pubblico, poi sicuramente la Spagna andrà male su Kur, non è che è solo colpa sua, però l'occasione l'ha fallita. Oggi Luca lo potrà confermare, varrebbe meno no, varrebbe meno, non tantissimo. Penso che Mourinho si è consolato con la cessione di David Luiz. Hanno pagato uguale. David Luiz l'hanno pagato a riccioli, capito? L'hanno pagato, hanno visto sto testone, hanno detto amico, quanto è tanto al chilo hanno fatto, veramente. poi insomma gli voglio bene, però veramente quella roba lì è quella roba lì è fuori dal mondo, dai, quella quotazione lì è fuori dal mondo. Un'ultima cosa, Luca, invece il vampiro, perché ieri in tutto il casino che è successo, tutte le cose sono dette, a un certo punto è saltata fuori perfino la voce: questo fuori dagli stadi, Daspo, campo, squalifica e tutto quanto, addirittura non potrà essere messo sul mercato. Io ho detto, ma a me questa sembra una sciocchezza, perché così creeresti anche un danno enorme al Liverpool nel caso in cui dovesse venderlo. Non, ovviamente non è così. No, non è così, ma la domanda ce la siamo posta anche noi, ti dico la verità, perché c'era scritto che veniva bannato da qualsiasi tipo di organizzazione calcistica e paracalcistica, quindi sì. Ci siamo posti la domanda. In realtà poi oggi leggo, no, abbiamo visto, dicono può rientrare il 27 con il Liverpool. Io credo che questo gli abbia rovinato molto il suo mercato. Lui era destinato o papabilissimo ad andare al Real Madrid, che quest'anno il suo centello l'avrebbe voluto spendere per lui. Ah. Magari cambiano idea a Madrid. Sì. Forse sì, forse sì. Perché, anche insomma, Pier lo sa meglio di me, lui ha seguito molto da vicino la Premier negli anni passati, credo lo faccia ancora perché le passioni non si dimenticano, ma Suarez lo amano soltanto a Liverpool. Se ti sposti di un chilometro gli tirerebbero in faccia delle pietre, credo. No, ma anche perché se giustamente si fanno delle riflessioni, se Wenger può fare delle riflessioni su Balotelli e uno così non legittimamente non lo vuole nel suo spogliatoio, cioè queste riflessioni, sebbene Suarez un altro giocatore, le fai anche per uno che morsica la gente, no, Piero? Ti prego. Ecco, allora, se facciamo un discorso tra virgolette di moralità e cattiveria, non c'è partita, nel senso che Mario è un pezzo di pane, nel senso, no? Suarez è uno che ha avuto comportamenti pararazzisti nei confronti di Evra, questo raptus del morso che è successo tre volte, insomma è nettamente più discutibile. Però vedi, i paradossi del calcio poi alla fine delle volte sono anche questi, che Suarez si è comportato male dal punto di vista etico sicuramente, però se tu lo guardi dal punto di vista della sua squadra è un giocatore che, al di là del danno che provoca adesso all'Uruguay con la squalifica del non essersi controllato, a parte che è un giocatore di un'altra categoria, sicuro, ma è uno molto amato, è un leader per i suoi tifosi, è un leader all'interno della squadra, insomma non è un giocatore discusso all'interno, è uno che dal punto di vista del Liverpool ha fatto strabene. Ma questo invece, che questo è indiscutibile, carino, no? Nel senso che comunque alla fine le sue cose mi sembra che siano spesso delle cose un po' infantili, ma non delle cose di cattiveria, però poi alla fine all'interno dello spogliatoio sono cose che magari pesano di più e che creano paradossalmente più problemi. Grazie ragazzi. Il piano etico non coincide poi con... No, ma dell'etica, no, ma io non sto parlando di etica, sto parlando del fatto che tu comunque investi un sacco di soldi su un giocatore che comunque è... psicolabile, mettiamola così, che può perdere 10 partite di campionato di stagione in un istante. Grazie Pier, sentiamo lunedì io e te. Sì. Ti abbraccio. Sì, ciao. Ciao anche Luca Marchetti. Ciao, ciao a tutti, ciao. Bad Corner GR, poi torniamo. Quote e pronostici. Primo giorno senza partite al Mondiale brasiliano, da domani poi largo agli attesissimi ottavi di finale con gli scontri fratricidi tra sudamericane con Brasile, Cile e Colombia, Uruguay. Quando siamo giunti ad avere le migliori 16, vediamo quali sono le quote SNAI per la vittoria finale. Brasile è sempre favorito, quotato 4, l'Argentina di un super Messi è quotata 5, così come il Panzer tedesco guidato da Löw, Olanda spumeggiante quotata 8,50, quota interessante anche per la Francia di Deschamps quotata 9, Colombia quotata 18, Belgio invece quotato 20, più alte le quote di Messico, Cile e Uruguay e di tutte le altre squadre approdate fino agli ottavi di finale. Usciamo però dal calcio e dal mondiale, perché stasera al Forum di Assago c'è l'ultimo atto della Serie A di basket con gara 7 tra Milano e Siena. L'asso piglia tutto di una stagione alla Cardiopalma è meravigliosa. L'1, la vittoria di Milano, è quotata 1,70, l'X è a 2,90, il 2 invece, con la vittoria di Siena che vincerebbe per poi sparire, è quotata 6. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Русская, давай. vanno a fare, devo preparare il trattore di ceci. Vanno a fare bizzù. Allora, questo è l'audio relativo al video pubblicato da Repubblica, dal sito di Repubblica, cui faceva riferimento Pardo prima. Sentiamo grosso modo degli effetti sonori e delle parole di, principalmente di Cassano. Vi leggo per completezza di informazione anche il testo che accompagna questo video. L'ultimo saluto sull'aereo, Cassano e Buffon, battute al veleno, sono i minuti che precedono l'atterraggio dell'Italia, reduce dal disastro mondiale, all'aeroporto di Malpensa. Gli azzurri si abbracciano perché una parte della comitiva scenderà a Milano mentre il resto del gruppo procederà per Fiumicino. Il clima è da ultimo giorno di scuola, ci pensa Cassano a surriscaldarlo. Appena sente Buffon canticchiare una strofa del brano Maracanà del rapper Emiskilla, lontano dalla grande mela c'è un piccolo uomo di una favela. Si rivolge con tono da sfottò al portiere della nazionale dicendogli «Tu scivi di là, eh?». Buffon non reagisce, forse cogliendo il senso ironico della battuta di Cassano, ma poi replica: se hanno scriteriato ti darei degli schiaffoni. Questo si sente, se ci avete fatto caso. Il siparietto non degenera, gli altri azzurri ridono divertiti e Cassano abbraccia Verratti. 800240024 è il vostro numero verde. C'è chi mi domanda i risultati delle prove di Assen, domani il Gran Premio del Moto Mondiale, sorpresissima in prova tra acqua e sole, come spesso accade da quelle parti in Olanda. Ebbene, in pole position partirà Alexis Espargaró, che ha fatto il numero sfruttando al meglio la pista umida prima di un acquazzone, e precederà dunque Marquez secondo, Pedrosa terzo, Iannone quarto, poi c'è settimo Dovizioso sulla Ducati, male le due Yamaha, Lorenzo nono e Valentino Rossi dodicesimo. Luigi da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo semplicemente dire una cosa che riguardo alla sanzione a Suarez, anche da parte di voi cronisti, ci dovrebbe essere un po' di autoanalisi e capire di valutare le proporzioni dell'azione, cioè quali sono gli effetti di un'azione fallosa, non semplicemente il gesto. Diciamo che paragonando per esempio l'atto di Balotelli a gamba alzata sul difensore, cioè se lo colpiva nel collo era praticamente un fallo da KO. Se lo colpiva nel collo. Ecco, esattamente. Quindi, cioè, se noi valutiamo le proporzioni dei danni, degli sì, effetti, ma non si fa così, Luigi, però abbia pazienza, non si fa così. Allora, quello di Balotelli, certamente un intervento da ammonizione, è entrato in maniera totalmente scomposta, senza alcun intento di far male, almeno questo glielo concediamo, gli diamo l'ergastolo anche su sta roba qua. Allora, se lo colpiva, non l'ha colpito. Fallo di irruenza, scomposto, stupido, inutile. Siamo d'accordo. Ma uno che va a morsicare un altro giocatore, ma stiamo a discutere sulle conseguenze, ma abbia pazienza. Ma cioè, se uno morsica in campo un altro giocatore, ma stiamo a discutere se quanto è andato in profondità coi denti? Ma stiamo parlando di questo, ma stiamo facendo, scherzando o dicendo cose normali e serie? No, perché allora cosa vogliamo dare? L'ergastolo anche a quell'altro perché se gli colpiva il collo? Ma fatemi il piacere, ragazzi. 800240024, Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sono d'accordo con lei sul fallo di Marchisio. Ieri sera è stato espulso un giocatore che ha fatto un fallo similare, molto simile. Quindi l'alibi dell'arbitro lo lascerei da parte, insomma. No, non esiste. Semplicemente non esiste. E anzi esiste. Anche da questo punto di vista mi sbaglierò, mi sbaglierò come faccio sempre. Però anche dopo averlo rivisto un miliardo di volte, anche in quell'intervento di Marchisio, allora stiamo a valutare le conseguenze come vuole il nostro ascoltatore, allora gli diamo un buffetto e gli diciamo bravo. Se invece valutiamo il tipo di gesto, allora insomma discutiamone, ha sbagliato, è stato eccessivo quell'arbitro, però non è stata una cosa così mostruosa, a mio parere. Poi, dica. Sulla nazionale di pallavolo, sì. E anche quindi sul nuovo allenatore. Io proporrei un allenatore straniero, perché che sia al di fuori da tutti quelli che sono le polemiche tra club, tra giocatori e non giocatori, uno che non viva proprio il mondo del calcio italiano. E no, mi rifaccio a Velasco. Lei sta parlando della nazionale di calcio, nuovo nazionale di calcio. Sì. Uno straniero, un CT straniero, che possa essere Hiddink o un altro nome. Mi viene in mente Velasco quando ha preso la nazionale di pallavolo, che non erano fulmini di guerra, li ha presi in mano, e con la sua mentalità, che era al di fuori, se lei va a leggere i suoi libri, lui parla dell'Italia, che dove si vive della politica degli altri. No, ma guardi che non è completamente cambiato mentalità questi giocatori, che non erano brocchi, non sono diventati neanche dei fenomeni, allora, non sono diventati dei campioni. Allora Giovanni, guardi che la mia idea non è molto distante dalla sua, nel senso che noi abbiamo degli allenatori bravissimi, tra i migliori al mondo, tra i più preparati tatticamente, eccetera eccetera, però questa via, che certamente non verrà praticata anche per questioni economiche, perché non dimentichiamo che allenatori di questo tipo e di grande nome prendono un mucchio di soldi e non il 1,5 milioni, 1,7 milioni che stava scritto sul contratto di Prandelli. Ricordo che appena ne piglia 9-10 dalla Russia. Però potrebbe essere una chiave, quantomeno per provare tentare un approccio diverso con questo tipo di manifestazioni, con questo tipo di vita che è quella della nazionale. A proposito di allenatori italiani che allenano all'estero, ciao Gianni Di Biasi. Ciao Carlo, un saluto di Radio Ascoltatore. Come stai? Sto bene, grazie. Stai bene? Cosa ne pensi? Vedresti un allenatore straniero sulla panchina azzurra? No. Sinceramente no. Perché? Sinceramente no. Perché siamo i più bravi? Siamo i più bravi, ma siamo anche discretamente limitati per un certo aspetto, perché avremo bisogno di avere un'apertura mentale diversa e non farci coinvolgere troppo da varie situazioni, club e quant'altro, e questo è l'aspetto sul quale magari posso porre un po' l'attenzione per quel che riguarda l'allenatore italiano. L'allenatore italiano è sicuramente quello un po' più estroso, è quello che sta lavorare sui dettagli, che alla fine riesce sempre, quando si mette in testa qualcosa, a raggiungere gli obiettivi, a parte gli ultimi casi che non confortano la mia ipotesi. Però devo dire che tutto sommato da noi è abbastanza difficile, è difficile in tutto il mondo sinceramente, però da noi abbiamo una pressione addosso decisamente diversa da altre realtà. Sì. Parlando di nazionale, tutto quello che è successo e sta succedendo in questi giorni, vorrei confrontarmi con te, perché io ho delle idee, mi sembrano abbastanza impopolari, però me le tengo, non le cambio. Tu sei dell'idea che la colpa di questa disfatta, di questo disastro sportivo, ovviamente, sia dell'uomo nero? No, non è dell'uomo nero, la colpa è nostra e delle nostre, secondo me, delle nostre negligenze, legate più che altro a un aspetto nei confronti della professione, dove ci mettiamo meno passione di altri. Io credo che lo sport più bello del mondo, che è il calcio, almeno per quel che mi riguarda, credo che debba essere vissuto con altro spirito, con altra voglia di mettersi in discussione. E a volte sembra che qualcuno ci faccia un piacere a mettere la maglia azzurra. Io credo che quando uno mette una maglia di una nazionale per ogni giocatore, credo che sia il massimo che un giocatore possa aspirare. Non è una perdita di tempo, non è allontanare le vacanze che uno agognava da tempo, è da cercare di caricarsi sulle spalle tutte le responsabilità e mettere in campo una prestazione idonea. Non parlo neanche dal punto di vista tecnico, ma perlomeno dal punto di vista della determinazione. Quella ci deve essere assolutamente. E quella non c'è stata in Balotelli, secondo te? Ma non dico in Balotelli, io dico che noi all'apparenza, tolta la partita contro l'Inghilterra, abbiamo corso meno degli altri, e questo è un presupposto che ti porta molto vicino alla sconfitta. Non è sempre detto che sia così, però ci vai vicino, perché se tu corri meno degli altri e corri male, fai girare la palla meno degli altri, non vai mai in profondità, difficilmente tu riesci a creare dei problemi agli avversari. Sì, corso meno degli altri magari perché non avevamo sufficiente benzina. possiamo parlare di preparazione sbagliata a occhio e croce? Credo di no, credo che i nostri abbiano un'esperienza, parlo i nostri tecnici, abbiano un'esperienza pluriennale, che sappiano monitorare con grandissima attenzione. Su questo aspetto io sono convinto di no. Io penso sempre all'aspetto mentale, che sia quello che condiziona un po' tutto l'ambaradan. E se tu mentalmente non sei preparato, non sei pronto ad affrontare una sfida, arrivi e non riesci a rimettere a posto la situazione. Il Costa Rica, questo famigerato Costa Rica, sarà una squadra di grandissimi calciatori, quello che vuoi, non ci credo. No. È il 35esimo posto del ranking FIFA, noi siamo all'ottavo, o almeno eravamo all'ottavo. Ma la stessa tua vicina di casa, dai Gianni, l'Albania, la Grecia, secondo me la Grecia è veramente una squadra di basso livello, dai. A livello tecnico, poi a livello di anagrafico, cioè di giocatori datatissimi. Ma è gente che quando mette la maglia ha l'onore di metterla e la rispetta. Questo è l'aspetto che mi piace di quelle persone lì. Noi abbiamo dato l'idea di non avere la giusta determinazione, questo è l'aspetto fondamentale. Leader compresi. No, perché io in questi giorni sto discutendo sulle reazioni, cioè sulle dichiarazioni dei leader del nostro gruppo, che a me non sono piaciute. Non mi sono piaciuto. Neanche a me. È un modo per cercare di fare delle. Di prendere le distanze. Esatto. Noi facciamo. Abbiamo sempre fatto bene. La vecchia guardia, il suo l'ha sempre dato. Sono quelli là o quello là che invece hanno sbagliato, si sono comportati male. Posso dire una cosa, io credo che la vecchia guardia, se è la vecchia guardia, come dico io, prende e mette a posto le situazioni, altri prima di loro, che prendevano per il cravattino, come si dice in gergo, andava fuori strada e lo metteva a posto. Questo è il discorso. Poi uno può disquisire sulle scelte che potevi fare in un modo anziché in un altro, ma quando sei lì e sei in quel contesto e ti stai giocando l'orgoglio e tutto quello che ci va di, ci deve essere un altro approccio alle partite. Questo secondo me si è evidenziato in questo mondiale. E non trovi anche che in un momento in cui è tutto azzerato, no? Non dimentichiamo che non è il primo fallimento mondiale, è il secondo, anche della vecchia guardia, perché in Sudafrica c'erano loro. Non pensi che a questo punto anche quelli della vecchia guardia dovrebbero dire ok, aspettiamo un nuovo commissario tecnico, ma tendenzialmente ci chiamiamo fuori, non c'è problema. Invece mi sembra che abbiano avanzato già la loro candidatura, Pirlo compreso, che ha fatto retromarcia. Beh, è sempre difficile mollare l'osso, uno ce l'ha, ce lo può tenere fino in fondo. Però guarda che tutti e due i mondiali sono figli della stessa natura, a livello mentale. Secondo me noi siamo andati da campioni del mondo in Sudafrica, abbiamo fatto una, io l'avevo detto al suo tempo, attenzione che il girone di qualificazione è più difficile, perché abbiamo un girone di qualificazione facile e noi con le cose facili non riusciamo a raccapezzarci, perché affrontiamo con meno determinazione l'ostacolo che hai di fronte. Quello è stato il primo, è quello che è successo quest'anno praticamente alla Spagna, pur avendo avversari di tutt'altro livello, perché Olanda e Cile sono due avversari di grandissima statura, e lì loro hanno pagato lo scotto di essere andati lì, secondo me, impreparati ad affrontare partite così. Tributo di riconoscenza, Gianni. Tributo di riconoscenza di Del Bosque a chi l'aveva portato fin lì. Forse è una fine fisiologica di queste grandi dinastie. Può essere che sia anche questo. Un'ultima cosa su Prandelli. Mi pare che abbia trasmesso solo incertezza alla squadra, allo spogliatoio anche, cioè non sia stato bravo, non in valore assoluto, ma nel gestire questa spedizione ed ogni aspetto di questa spedizione, perché se tu vai lì sapendo qual è il tipo di squadra, qual è il modulo, quali sono gli interpreti, cosa che aveva fatto all'europeo precedente, perché là tutto era chiaro dal punto di vista dell'organizzazione e dell'impostazione, qui mi sembra che ci sia stata un'incertezza che ha contaminato il gruppo. Io ti dirò che ho una grandissima stima di Prandelli come tecnico e come uomo, e quindi lo difendo a spada tratta. Il problema in fondo è che quando tu perdi una partita come quella contro il Costa Rica ti vengono mille dubbi, allora dici cosa faccio? Mi affido al blocco della Juve che ha la certezza di poter giocare insieme nei tre centrali difensivi, allora proviamo in quella situazione lì. Non dimentichiamo che nell'ultima partita decisiva ci marcava un giocatore importante davanti all'area di rigore che era De Rossi, giocatore per noi fondamentale. Poi siamo andati incontro a una prestazione tutto sommato che era pari a quella dell'Uruguay. È vero che non abbiamo tirato in porta e questo è sicuramente la cosa più deprimente, però non è che abbiamo fatto la partita più brutta del mondo. Poi una partita che potevamo pareggiare tranquillamente, passavamo il turno e magari... Ma ti dico, primo tempo anche discreto, secondo me. A me primo tempo non è dispiaciuto, al di là del fatto che non tiriamo mai in porta e che possiamo dire tutto quello che vogliamo al numero 9, però di palle non gliene abbiamo date tantissime. Questo sia chiaro, sì. Né a lui né a Immobile, eh. Sì, ma non possiamo neanche ridurci a tirare in porta solo con un uomo. Sì, sicuro, sicuro. Un accompagnamento diverso. Quando dicevo prima, dobbiamo cercare di accompagnare un po' di più l'azione offensiva, giocare più da squadra, quindi essere molto più raccolti, pronti a fare questo possesso palla e poi però verticalizzare, avere dei punti di riferimento. E io credo che con gli esterni, Darmian a destra, a sinistra, De Sciglio stesso, avevamo la possibilità di creare delle difficoltà, di dare ampiezza alle nostre azioni offensive. Purtroppo non l'abbiamo fatto, non so darti le spiegazioni, perché poi le partite vanno preparate prima sulla carta, sul campo e con la testa, io credo. Chi vince il mondiale, Gianni? Cambio domanda, chi ti piace di più? Chi mi piace di più? Due o tre squadre mi sono piaciute tantissimo. La Colombia mi piace tanto, sì? per la spigliatezza con la quale riesce a giocare. Poi c'è il mio ex giocatore Cuadrado, che è veramente straordinario. Mi piace l'Olanda, della quale non avevo nessuna... dubbio. Non la vedevo come favorita. Il Brasile non mi è mai piaciuto, l'ho visto tre volte, ma in tre volte non gli ho visto fare una partita da Brasile vera, sì. E poi cosa vuoi, le solite. Credo che l'Argentina possa col suo modo di fare, con quel giocatore che sta tirando fuori il meglio adesso, Messi, credo che possa avere grandi chance. La Germania mi piace anche questa, quindi ti potrei dire 6-7 squadre. Sì. Grazie Gianni, come sempre. Grazie Gianni De Biasi. Allora, ci siete? 800240024, credo di sì. Dario da Rimini, buongiorno. Salve, buongiorno. Mi dica. Signor Gente, è un piacere parlare con lei. Secondo me lei ne capisce molto di calcio, nonostante quello che dicono in radio. Ma sì, ma non è un problema. quasi quasi la farei lei. No, ma calcio capiamo tutti alla stessa maniera. Sulle dinamiche, sugli uomini ho le mie, di idee me le tengo. Però sono il 90% sono sempre quelle giuste. Comunque, a parte questo, volevo dire un pochettino la mia considerazione sulla nazionale. Io penso che c'è da fare un pochettino da mandare a casa tutti i vecchi, insomma, perché di giovani in Italia ce ne sono forti e di talenti. Sì, tipo un Verratti anche secondo me guardi, campionissimo. Adesso noi siamo il paese dei fregnoni e quindi piangerci addosso ci diverte un mondo, però non siamo poi messi così male, eh. Adesso verranno fuori tutte le solite pippe, i settori giovanili, e facciamo giocare i giovani, quando io continuo a pensare facciamo giocare quelli bravi, ma sempre, e se i nostri giovani non sono bravi che vadano a giocare in campionati diversi, magari meno competitivi, per vedere se valgono qualcosa, eccetera eccetera eccetera. Secondo me non siamo messi poi così male, quindi sono perfettamente d'accordo con lei, questo è il momento zero, se non era il momento zero quello dopo lo scorso mondiale, adesso lo è certamente, e quindi può giocare, si può pensare a qualche cosa di diverso. Però ripeto, se, come diceva Gianni De Biasi, chi ha l'osso in bocca fa fatica a mollarlo, allora anche CD che arriverà dovrà fare i conti con queste cose, chiunque esso sia. E per questo mi auguro che sia un CD, un commissario tecnico con due belle spalle, magari quelle di Roberto Mancini. Fabio Pistoia, no? Dopo? Sì. Sì, Fabio, mi dica. Buonasera, signor Genta. Salve. Come sta? Bene, c'è male. Tutto a posto. Senta, io le volevo dire solo una cosa. Voi fate il vostro lavoro, ma secondo la mia modesta opinione, quest'anno noi siamo giocato con due squadre un po' riaccattate tecnicamente, e noi siamo più raccattati di loro. Qui si sta a ragionare di mille cose, di Balotelli, di tutti questi giocatori, di Chiellini, cioè si gioca con Chiellini, si gioca con tutti quegli altri, cioè, secondo proprio il mio modesto parere è finita, chiuso, cioè se è preso si va a casa. Ma quegli altri non è che erano più scarsi di noi, saranno noi più scarsi di loro. Proprio questi uomini per uomini, non sono... Ma no, secondo me, Fabio, non eravamo più scarsi di nessuna delle tre di questo girone e non siamo certamente più scarsi, presi uno per uno, di molte squadre che si sono qualificate, che andranno avanti o anche molto avanti. Non penso che l'Italia, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dei singoli interpreti, se vogliamo prendere figurina per figurina, sia così scarsa. Il mondiale è una cosa strana ed è bello per questo. E boh, secondo me va così. Le stelle hanno deciso che in Italia dovesse esserci un terremoto mondiale. Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Tutti convocati. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Bola pra frente, Brasil. Mais uma Copa do Mundo entre o Brasil. Non lo so, sicuramente adesso non bisogna accanirsi contro il ragazzo. Sicuramente non è stato lui il problema di tutta la sconfitta. Sappiamo che Mario è un giocatore importante ed è brutto vedere che si accaniscono tutti contro di lui. Per adesso me ne sto a casa, poi in caso l'allenatore avesse bisogno di una porta in campo io sarei sempre volentieri. Cosa potevate fare di più così? Adesso avete avuto dei giorni per pensarci. Ma un po' tutti, qualcuno doveva dare di più e si poteva sicuramente fare meglio, quindi adesso prendiamolo come un bagaglio di esperienza e ripartiamo alla grande. Le parole dei senatori vi hanno fatto male dopo la partita? No, ci sono da insegnamento perché sono più grandi, hanno vissuto esperienze importanti e noi dobbiamo seguire i loro consigli e quello che ci dicono. Non è mai per sgridarci o per qualcosa, ma è sempre per insegnarci a comportarci meglio. Boh. Avrei da obiettare su queste parole molto... profondo rispetto da parte di Ciro Immobile, che peraltro insomma anche lui come tutti gli altri ha giocato un buon mondiale, non ha strusciato pallone nell'ultima partita contro l'Uruguay. Aspettavamo la sua magia, magari si poteva usarlo prima o da subito o sempre in ogni modo. Certamente per quanto ha giocato ha deluso lui come tutti gli altri. Poi abbiamo sentito Darmian difendere Balotelli all'inizio e poi abbiamo sentito Pirlo ritirare il suo ritiro, che i ritiri, come ho letto da qualche parte oggi, sono qualcosa di volatile. Ma sì, non vengo più, però magari torno e poi vado via e ritorno indietro, è una porta, una finestra sempre si lascia aperta. Giuseppe Palermo, buongiorno. Ciao. Gente, ciao. Ascolta, io di te apprezzo tante cose, soprattutto la schiettezza con la quale esprimi i tuoi concetti, con anche intrisi di criticismo, se vogliamo, calcistico, al punto giusto. Ma non però, lo so, io ti ringrazio, semplicemente però, ho la fortuna di poter dire sempre quello che penso. Questa è la mia fortuna. Sì. Ma questo in effetti lo si nota ampiamente, il fatto che non hai piedi sulla lingua, come si suol dire. Però mi sento di dissentire da te, da questa posizione che hai assunto in difesa su tutta la linea di Mario Balotelli, senza comprendere fino in fondo le ragioni del suo malessere, le ragioni del suo non giocare a calcio spesse volte, molte volte, nonostante lui faccia di professione il calciatore e percepisca una retribuzione lasciamo stare i soldi, togliamo i soldi da tutto il discorso. Dico soltanto una cosa, che adesso si tenta in qualche modo di mettere in croce i vecchi della nazionale, così i detti anziani, i senatori da spogliatoio, però è anche vero, mettiti nei panni di Buffon, di Pirlo, di De Rossi, di tutti questi signori che comunque in qualche modo hanno messo in condizione Balotelli di tirare in porta, perché nel primo tempo ascoltami, Balotelli ha avuto le sue occasioni e per le sue turbe psicologiche che si porta sempre appresso non è riuscito neanche a centrare una porta rispetto alla posizione che occupava e che era la più facile delle più facili, neanche d'accordo? Con l'Inghilterra. Prego? Neanche con l'Inghilterra? No, con l'Inghilterra ce l'ha fatta perché una serie di situazioni contingenti, anche di equilibrio di gioco. Sì, allora merito di tutti una serie di situazioni contingenti se l'ha piantata dentro con l'Inghilterra. Colpa sua invece se ha sbagliato, perché ha sbagliato gli unici due palloni che gli sono arrivati in due partite, che ci metto anche quella con Uruguay. Ma detto questo, io non voglio mettere in croce nessuno, non voglio mettere in croce i senatori, non voglio e non mi interessa e non è neanche il mio pensiero. Mi limito a dire che a me non, e lo ripeto per l'ennesima volta, così c'è anche il mio amico Leo Turrini in linea, perché ho bisogno di tirarmi un po' sul morale. Ciao Leo. Ciao. Come ciao? No, sono qui. Sei depresso anche tu? No. Beh, io sai, ho fatto questa veglia funebre a 10.000 metri di quota, tornando, eravamo partiti per suonare poco più di 3 settimane fa, siamo tornati suonati, hai capito? Mogli, fidanzate, bambini, prandelli, giornalisti, tutto. Puoi immaginare, insomma, ci sarà bisogno di un po' di tempo per recuperare, ecco. Cosa dicevi di Balotelli? So che il tema ti sai che? Il tema ti affascina, no? Mi affascina molto, ovviamente sto qui nella riserva indiana, ma senza pretesa di aver ragione, tutt'altro, anzi probabilmente ho torto. Continuo a pensare che se è un talento non sarà mai un leader, continuo a pensare che se più gli si buttano addosso responsabilità peggio è chiaro, questo è un enorme limite, però non è che possiamo dire, cioè io non sto parlando del numero 9, sto parlando dei senatori che hanno detto la colpa è sua, e questo a me non è piaciuto. Ma guarda, io credo una cosa, hanno perso tutti, anzi, dato che io ero là, abbiamo perso tutti. La cosa veramente disdicevole è proprio questo sfascio immediatamente successivo alla sconfitta. Esatto, è stata la cosa peggiore. A Natal, ma ti giuro, geniale gente, sembrava di essere l'8 settembre del 43, hai capito? Il re che fugge a Pescara accompagnato da Badoglio. Allora, avete che dare dimissioni, Prandelli che dare dimissioni, Balotelli secondo me si era dimesso in incognito con largo anticipo, no? I vecchi contro i giovani, e ci avevano raccontato che questo gruppo, al di là dei valori tecnici, aveva la forza della coesione, no? Siamo compatti, lo spirito, eccetera. Di fronte al risultato negativo ti viene fuori veramente lo sfascio. Io ho detto proprio, l'ho anche scritto, l'8 settembre. Cioè, a me ha fatto peggio il modo. Bravo, Leo, io ti adoro. Ma bravo, ma del fatto stesso che abbiamo perso. Abbiamo perso un sacco di volte. Abbiamo perso partite, mondiali, guerre. Abbiamo perso di tutto. Però spesso non perdevamo la faccia. Stavolta la faccia l'hanno persa tutti. Bravo, è stata una cosa veramente deprimente. Infatti, ripeto, se parliamo solo di pallone, noi siamo una nazionale che ha fatto 2 mondiali, ha giocato contro squadroni come Paraguay, Nuova Zelanda, Slovacchia, Costa Rica, Uruguay, ne abbiamo vinta una, cioè, ma che cosa stiamo a dire? Di no? Che stiamo a parlare? Qui se parliamo di calcio, è il resto che veramente è malinconico, dolorosissimo. Guarda, io ieri mattina sotto una fitta pioggerella sono sceso a Malpensa, no? Sì. E non so, forse per ragioni tecniche eccetera, ci hanno fatto ritirare il bagaglio sotto la pancia dell'aereo. Io ho visto l'indifferenza dei lavori degli operai, che capito, nei confronti dei giocatori. Questa è stata la risposta migliore, io penso, perché l'indifferenza è peggio dei pomodori. È un'Italia delusa, diciamo, la delusione dell'Italia vera di fronte all'Italia finta, che era quella del pallone. Non gli hanno chiesto un autografo, non hanno voluto un selfie. Io non so se questi giocatori che sono sempre lì a twittare annunci matrimoniali e quant'altro lo abbiano capito, no? Però ripeto, quello che rattrista tantissimo è il modo della sconfitta, perché tu, se sei scarso in campo, puoi perdere, eccetera. A tutto questo burritone dopo, subito dopo, veramente devo dirti sconcertato. Sono d'accordo. Su Balotelli, Balotelli ha perso esattamente come gli altri. Esattamente cosa, come gli altri. Una cosa però che io voglio dire, io dal Brasile ho scritto delle cose durissime sul piano tecnico, su Abate e Cassano, per dire, no? Che sono bianchissimi. Allora, se applichiamo la logica dell'ultimo instant gram di Super Mario, Cassano o Abate o gli altri bianchi di questa nazionale potrebbero pensare che io sono un razzista al rovescio. È in questo che Balotelli, secondo me, va dalla parte d'oro. Leo, su quello non c'è dubbio. Ma lì ha fatto una sciocchezza. Cioè, è chiaro che voleva rispondere non tanto a questo, ma a quegli altri, suoi compagni, sì, di squadra. Però lo fa in un'altra maniera. Lì, no, assolutamente. Cioè, quella è una sciocchezza. Qua, guarda, una guarda, sciocchezza colossale. Questo è, secondo me, l'aspetto che indispone la gente comune nei confronti di Mario, anche quelli che magari gli vogliono bene o lo stimano. Guarda, io 4 anni fa sono andato avanti in televisione prima del Sudafrica a dire che lì era un passo a non portare Balotelli, perché come calciatore è uno che le qualità le ha, no? 2 anni fa eravamo all'Europeo in Polonia e Ucraina, io sono stato molto contento che Mario abbia fatto bene in più di una partita, siamo arrivati in finale anche grazie a lui. Se però tutte le volte che lui non tocca palla gli succede, no? Esattamente come i suoi compagni, la sua risposta è: siete razzisti, i miei fratelli neri. Ma sono quelle lì, sono manie di persecuzione di uno che è caratterialmente fragile ed bravo, è talmente fragile. Uno forte, sai cosa faceva? Ma come ha detto ieri Mario Boni, andava da Buffon, da De Rossi, o andava in televisione mettendoci la faccia, non scappando via con il cappellino e le cuffie, e diceva il suo pensiero, non mandava aspetta, mi vengono parolacce. Sta lì, Leo, mi vengono solo parolacce. Strade. Gente, tu sei per la radio come Zuckerberg per i social network, no? Tutti convocati. 800-24-00-24 per i nostri ascoltatori, che sono tantissimi. E Leo Turrini, qui stavo dicendo una cosa che però mi sono scordato, perché mi veniva un turpinocchio. È arrivato il traffico, ma stavi appunto parlando del Balotelli che doveva metterci la faccia. A metterci la faccia, Leo. Solo che lui comincia a pensare che sia uno sfigato, cioè essenzialmente uno sfigato, che fa il bullo, il duro, eccetera, eccetera. Però quel tipo di coraggio lì non ce l'ha, e questo è un limite. È per quello che dico, non sarà mai. Io ripone Carlo, anche se seguo poco, eccetera, che non abbia attorno dei consiglieri avveduti, hai capito? Perché tu sei come sei, un personaggio pubblico, poi l'abbiamo visto anche lì in Brasile, devo dire, molto popolare anche all'estero, dove conoscono evidentemente più le qualità del calciatore quando espresse che non tutto il resto. Devi avere una consapevolezza diversa, poi dopo puoi anche giocare male. Se lui avesse detto: guardate che qui abbiamo perso tutti, se noi, guarda, allora sai che si parla tanto di abolire il Senato e il CNE, no? Allora, evidentemente Prandelli si è messo avanti, essendo renziano, ha abolito il tiro in porta, no? Perché Prandelli noi non tiravamo mai in porta. Il tiro in porta e ha abolito anche la figura del commissario, dell'allenatore, secondo me. Benissimo, allora autogestione. Balotelli doveva dire questo, magari, no? Dire: guarda, se abbiamo perso tutti, certo, se stiamo in campo 3 ore, quello che è, tra Costa Rica e Uruguay, non tiriamo in porta una volta, non è che gli italiani possono pensare che hanno perso perché il centravanti sono io, no? Abbiamo perso tutti assieme. Noi forse abrogheremo il Senato, forse abrogheremo il CNEL, nel frattempo abbiamo abolito il tiro in porta, abbiamo rimosso dai nostri manuali del calcio. Queste sono le cose delle quali bisognerebbe occuparsi e parlare, hai capito? Perché si può perdere, possiamo anche giocare male, ma io quando vedevo queste scene, guarda, contro la Costa Rica, a un certo punto, alla fine, eravamo lì, avevamo 3 fantasisti più Balotelli, no? Passavamo la palla all'indietro. C'era il portiere costaricano, si è abbronzato in quel giorno lì a Recife, no? Proprio poteva anche, secondo me, ma sai, lì faceva caldo. Anche su questo. E mentre a Natal c'era l'arbitro che si chiamava Moreno, capito? No, ma Carlo, ma voglio dire una roba, anche questa faccenda, il caldo, eccetera, a parte che è troppo semplice rispondere, c'era, no? Ma la questione è un'altra. che a noi è stato raccontato dallo staff sanitario della federazione, dall'allenatore, dagli stessi giocatori, che stavano benissimo, che si erano preparati in un modo perfetto per le condizioni climatiche, che avevano simulato addirittura, non so se gli allenamenti in sauna o il bagno nel ghiaccio. Poi dopo tu vai alle partite, i nostri boccheggiavano. Allora è evidente che è stato sbagliato tutto, per questo io ripeto, abbiamo perso tutti. Prendersela esclusivamente con il numero 9 è un'ingiustizia, dopodiché lui, mi dispiace, purtroppo non è intelligente, perché quando uno appunto risponde dicendo ah, mi si accusa perché sono di un colore diverso, no. Ma perché quello lì è il modo più facile, Leo, perché in altre maniere ci vuole un coraggio, una personalità che non ha, perché per fare dell'altro, mentre su quello, quella è la sua coperta di Linus, inutile, tutta piena di buchi. Per agire in un'altra maniera ci vuole coraggio. Adesso infatti mica parla lui, parla Raiola, parla Galliani, parlano degli altri quando dovrebbe, ma io, guarda, per me bisognerebbe fare una legge in Italia, visto che Renzi adesso l'Italia deve cambiare verso, abolire le interviste ai procuratori, ma non Raiola, ma a me non interessa, ma chi sono, che ci debbano fare gli affari giustamente dei calciatori loro assistiti, spero li facciano bene, li facciano guadagnare sempre meglio, ma non esiste che i procuratori ci vengano a dettare la dottrina, queste cose qui, che ci spieghino loro cosa funziona, ma voi occupatevi di contratti, di percentuali, fate benissimo, ma il resto lasciate stare, per favore, possiamo parlare qualche volta di calcio e dire, ma insomma in Italia siamo a questo livello qui, voglio dirne un'altra per il mio amico Genta, perdiamo dalla Costa Rica, sì, e giustamente c'erano in campo 5 della Juventus, giustamente, perché la Juventus da 3 anni è la miglior squadra, sì, del nostro torneo, Tutti dicono prima dell'Uruguay bisogna riscoprire il blocco Juve, ce n'erano già 5 in campo, no? Contro l'Uruguay ne abbiamo messo uno in più, sì, ma abbiamo pure fatto bene, per l'amor di, sì, Dio, no? E dopodiché si perde ancora. Allora, prima di cosa stavamo parlando? Ma perché non diciamo che la verità è che la Juventus è la più forte squadra che c'è in Italia da alcuni anni, ha battuto, sì, tutti i record, ha fatto 102 punti, lo spessore internazionale, tolto Pirlo, no? E se vuoi Buffonti, qualcuno di un'altra generazione, è quello che è, lo vediamo nelle coppe europee, figurati le altre squadre italiane, quindi non è mica una critica alla Juventus. Lo sappiamo, il problema è che io ti propongo ovviamente come CT, ma anche perché, una delle cose peggiori a sto giro, e poi chiudo, è stata che la formazione della nazionale italiana l'abbiamo fatta tutti noi, Prandelli no. Allora, okay, guarda, questa cosa è vera per l'ultima partita, subito dopo aver perso con la Costa Rica, tutti abbiamo cominciato a dire che noi che eravamo lì, eccetera, no, ma deve giocare con le due, sì, punte, due punte, deve giocare la difesa. Quando la io ho capito che lui avrebbe fatto veramente questa scelta, mi sono reso conto, guarda, io lo dico con dispiacere perché io Prandelli lo stimo, a inizio primavera avevo due punti di riferimento nei due brand italiani, no? Prandelli, cos'è? Parte la musichetta, Leo, mi parte la musichetta del migliore in campo, vuol dire che devo chiudere il programma. Senti, facciamo un'altra volta. Abbiamo tempo, amico mio. Sì, anche perché il mondiale per noi continua da spettatori, Ma certamente. Allora la prossima volta ti chiamo e vediamo insieme se riusciamo a sbagliare l'ennesimo pronostico. Ciao Leo Turrini, ti abbraccio forte. Grazie a voi. Ciao. Devo andare col migliore di oggi, migliore in campo, la maglietta tra gli ascoltatori, maglia grigia, dirà a tutti i convocati, a chi va? Piero, buongiorno. Buongiorno e buon lavoro. Ma io volevo parlare dell'ipocrisia di Chiellini che perdona Suarez. Ma cosa gli ha fatto? Gli ha appoggiato le labbra, i denti, è andato in escandescenza, poteva rimanere concentrato a giocare, però lo perdona, ma anche lui quando mette veemenza, come è giusto metterla in qualunque gioco, nello sport,